non rimpiangerò mai i giorni io e te. Ti guarderò indietro senza chiedermi se soluzione ce n'è. Se ormai io prendo la mia strada e tu la tua e poi vai, non rimpiangerò mai i giorni io e te. Ti guarderò indietro senza chiedermi se soluzione ce n'è. Se ormai io prendo la mia strada e tu la tua e poi vai. Perché il tuo viso vale molto più di un sorriso, vale molto più di un mio amico. E non mi spreco a prenderti in giro, quindi senti ciò che ti dico. Potrà essere anche la fine, ma ripensa a quello che è stato. E certo, nulla è come in passato. E certo, tutto adesso è cambiato. Guardo indietro con un sorriso e ripensa ad ogni occasione. Ogni emozione come un gran pezzo dentro la radio a darti calore. Baciami amore ed è un'altra volta, ma quest'amore adesso è passato. Pensi che non mi importa che fai, tu con chi stai, chi hai frequentato. Ora le cose stanno così, forse così dovevano andare. Tutto che insisti, tutto che fingi, tutto che spingi gli altri ad amare. Di ragionare non se ne parla, forse noi in questo siamo diversi. Tu molte cose manco le ammetti, io certe cose le scrivo in versi. Dai, ma ci pensi mo che è finita, mo che non sale più la mia vita. Io prendo in mano un'altra matita e scrivo di pugno un'altra partita. Tu sei partita, sei andata via, io resto qua, il posto è lo stesso. Torno dal gruppo che ho abbandonato per una storia buttata al cesso. Ma ormai i giorni io e te, ti guarderò indietro senza chiedermi se soluzione ce n'è. Se ormai io prendo la mia strada e tu la tua e poi vai, non rimpiangerò mai i giorni io e te. Mi guarderò indietro senza chiedermi se soluzione ce n'è. Se ormai io prendo la mia strada e tu la tua e poi vai. Eri la mia white butterfly, one star in the sky. Ora te ne vai, spero ti andrà bene, bye bye. Non mandarmi mail, sms, messaggi in Facebook. Voglio stare solo, oggi voglio sprofondare giù. Non ho nulla su cui appoggiarmi, se non questa bottiglia di vino. Non ho te per poter sfogarmi, non ho te che mi tieni vicino. Sei la fiamma dentro il mio accendino, solo che hai smesso di bruciare. Eri il fuoco dentro il mio camino, che sapeva come riscaldare. Hai ripreso le foto, la roba e gli oggetti, ricordi da camera mia. Ogni pezzetto del nostro rapporto, ogni cosa l'hai presa, l'hai portata via. Restano solo cornici svuotate, restano solo due foto sfocate. Una con noi sotto il sole d'estate, l'altra di un viaggio nel mese di maggio. Ricordi in quel sedile posteriore, il mio corpo dentro il tuo per un paio d'ore. Il tuo culo che si poggia sul mio pantalone, non era fare stasera, fare l'amore. Ehi, ora che non stiamo insieme, posso ricordarti per ciò che sei stata. La migliore amante, la migliore amata, la migliore sì, la migliore fidanzata. Non mai i giorni io e te, ti guarderò indietro senza chiedermi se soluzione ce n'è. Se ormai io prendo la mia strada e tu la tua e poi vai, non rimpiangerò mai i giorni io e te. Ti guarderò indietro senza chiedermi se soluzione ce n'è. Se ormai io prendo la mia strada e tu la tua e poi vai, non rimpiangerò mai i giorni io e te. Ti guarderò indietro senza chiedermi se soluzione ce n'è. Se ormai io prendo la mia strada e tu la tua e poi vai, non rimpiangerò mai i giorni io e te. Ti guarderò indietro senza chiedermi se soluzione ce n'è. Se ormai io prendo la mia strada e tu la tua e poi vai. Alla fine anche un cugino può amare, con la sola differenza che lo fa molto meglio di voi. Ha! RIKI qui sul posto, Blood Family Cugino.